soy yo. Viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Pochi istanti fa avevo messo sul mio profilo Facebook il titolo della trasmissione di oggi, come sempre faccio, e avevo scritto oggi fughe dal matrimonio. Immediatamente due o tre persone hanno scritto rughe dal matrimonio. Cosa vorrà dire? Un segno? Beh, tutto comincia esattamente così. Dai, che il matrimonio è ancora il culmine delle attese di ogni fanciulla, anche cinquantenne. Dai, che l'industria matrimoniale ha raggiunto punte sublimi. Dai, che durante i matrimoni succede di tutto. Forza, signori, liberiamo il cafone che giace sopito in noi. Compriamo l'abituccio matrimoniale, con la bella giacchetta da romantico poeta, le belle scarpe lucidine a punta, il gel a tonnellate, le ciglia arricciate. Su, signore e signorine, mettete il cappello di Paris Hilton, la borsettina con lo strass. Vedrete che riuscirete a prenderlo al volo. Il bouquet della sposa in lancio spaziale. Tutto comincia così, ma tutto non mantiene le promesse. Promesse tarocche, promesse fittizie e promesse costruite su modelli che vengono suggeriti dal meraviglioso mondo che riproduce il reale. Questo è aprile, il più crudele dei mesi, ma anche il mese in cui più persone si sposano. Da qui a maggio fino agli inizi di giugno e poi nuovamente a ottobre, vedremo tutti i giardini di Roma riempiti di coppie post-matrimoniali, nel senso si sono sposate magari la settimana prima, qualche giorno prima, rivestiti e rimpannucciati per il giorno più bello con i fotografi a fare l'ultimo e terminale spezzone del servizio, l'ultima tranche della prova tangibile della loro felicità, davanti a Rudere, davanti alla colonna, davanti alla fontanella, mentre danno il becchime alle tortorelle, mentre accarezzano le nutre, mentre corrono con gli animaletti del parco. E poi inizia la vita, inizia il quotidiano. Poi il matrimonio lentamente va avanti, si evolve, diventa prassi, diventa sopportazione, diventa momenti di conforto, diventa momenti di allegria, diventa anche altre cose. Poi improvvisamente ci si dimentica di essere sposati, o perlomeno essere sposati rappresenta una delle tante fattispecie rituali che ci teniamo attaccati addosso. Siamo sposati nella stessa maniera come abbiamo fatto la prima comunione, come abbiamo festeggiato la festa di laurea, come abbiamo fatto il meraviglioso party dei nostri 18 anni, ammesso l'abbiamo mai fatto, come le bicchierate tra amici, come i momenti che ricordiamo, come i compleanni, come i barbecue fatti l'estate in riva al mare. Tutte queste felici ritualità della nostra vita ingloberanno, inghiottiranno dentro anche il momento del matrimonio. Perché dico questa lettura così pessimistica? Non parlo mia per esperienza personale, poi questa mattina onestamente lo dico con grande rispetto per chi mi ascolta, di tutto avrei voglia di parlare meno che di matrimonio, proprio perché non mi va, non è in questo momento al centro della mia sensibilità o della mia attenzione, non mi incuriosisce in questo momento, ma non perché abbia qualcosa nei confronti del matrimonio, ma ho la testa un po' da altre parti. Beh, detto questo, è stato per me importante definire il contesto, definire l'incipit, definire ciò che c'era prima, perché il vero punto di questa trasmissione è la telefonata che ci ha fatto l'ascoltatrice Sonia. Sonia l'abbiamo presa a testimone di uno stato d'animo, di un disagio o di una meravigliosa scoperta, come appunto la datrice condizionata o la sindacalista della libera d'azione intima. Tante volte abbiamo avuto donne che sono fatte portavoce di un'istanza, se la sono cucita addosso sulla loro carne e come tale ce l'hanno raccontata. 800240024. Preparatevi, voi sposati o voi che lambite comunque dimensioni matrimoniali altrui, ascoltare la confessione di Sonia. Sonia è una 43enne, divorziata, Vuole trovare un nuovo compagno, ma si trova continuamente a contatto con una terrificante, insidiosa e infame generazione di esseri umani di sesso maschile, perlomeno nella loro dichiarazione più estemporanea. Sono i finti single. Voi sapete, da questo meraviglioso rituale matrimoniale che abbiamo appena enunciato, possono nascere un'infinità di varianti, di variazioni, di assemblaggi, di diramazioni, ma quella del finto single probabilmente è la più arcaica, la più antica, tanto di Alberto Sordi nelle commedie italiane che si toglie la fede e cerca di simulare il cerchetto bianco che rimane al suo anulare. Sono Sonia, ho 43 anni, sono stata sposata solo per un paio d'anni, ho sempre cercato una persona con la quale avere una storia vera, sincera, senza trucco e senza inganni. Però in questa ricerca ho incontrato parecchi uomini che non sempre, anzi mai, dicono chiaramente chi sono e che cosa cercano. E la maggior parte delle volte si tratta di uomini che sono sposati o strettamente legati a qualcuno e che cercano la donna della loro vita, secondo loro, chiaramente illudendo la persona che incontrano, me in questo caso, per forse solo abbindolarla e divertirsi. .800 24 0024, stiamo cominciando lentamente ad entrare nell'immaginario di una donna che cerca un uomo. Elemento e fattispecie molto conosciuta, consueta, abbiamo spesso tratto come una delle angosce più profonde del pubblico femminile che ci ascolta la carenza totale, la mancanza pneumatica di trovare uomini disposti ad ascoltare donne, disposti a seguire donne, a sollecitare donne, a soddisfare il bisogno in relazione di donne. Siano essi sposati, accoppiati, multipli, abbiano rapporti sporadici, purché lo dicano, purché lo dichiarino. Invece no, la subdola genia dei finti single pare che sia la più insidiosa, pare sia la più terrificante, sia quella che semina più illusioni. A chi oggi ci darà delle informazioni più dettagliate, chi ci darà delle letture più esasperate, a chi ci darà delle angolature più sconosciute, regaleremo uno dei tre meravigliosi libri infami che stringo in questo momento tra le mie mani. Chi va e chi ha occasione di guardare nel profilo Facebook questa mattina vedrà anche quali saranno i meravigliosi titoli delle opere d'arte inimitabili che avrete se sarete bravi. Quando conosco un uomo mi accerto, anche per rispetto per me stessa, ma anche per la persona con cui, che pur non conoscendo, con cui questa persona ha a che fare, chiedo immediatamente se è una persona libera e dico chiaramente quali sono le mie intenzioni. Io voglio un rapporto che sia totale, con un obiettivo, che è quello di passare la seconda parte della mia vita insieme a questa persona. In realtà, fatta questa premessa, si capisce che l'altra persona fa due conti. E forse perché davanti si trova una donna di bella presenza, una donna intelligente, anche piuttosto libera, non vuole farsi sfuggire questa occasione e allora si cerca di nascondere qual è la reale situazione. Oddio, nel gioco antico e seducente della dazione e della ricezione, forse, questo lo dico come provocazione, può essere ammesso qualche piccolo stratagemma, può essere ammessa qualche cosmesi del proprio status. Le nostre ascoltatrici che si confessano, che ci danno queste meravigliose perle di esperienza vissuta, in realtà hanno bella presenza. Lo hanno verificato anche i miei ascoltatori quando hanno visto pubblicata su Facebook la foto della sindacalista della condizione del minimo necessario per una libera d'azione intima. Era una bellissima donna, meravigliosa, suggestiva, ipertaccuta, ben di bellissima presenza. Quindi non sono donne che in realtà rappresentano degli esempi di mestizia, gli esempi di abbandono totale, sono donne che avrebbero a pieno diritto necessità e capacità di rendere felici altre persone. Anche Sonia si dichiara, e avremo modo di provarlo e di dimostrarlo, una donna piacente. Dice: probabilmente il subdolo simulatore altro non fa che contrapporre allo sforzo che faccio per essere piacente lo sforzo che fa lui per essere appetibile, e quindi modifica, cambia la sua condizione anagrafica. La l'anno scorso io ho conosciuto un signore il quale mi dice appunto che si sta per separare in quanto la sua seconda moglie lo ha abbindolato per denaro e quindi sono arrivati a una rottura proprio totale, vivono separati in casa. Ok, questo signore ha avuto una figlia da una precedente moglie e insiste appunto che lui in me ha trovato la donna della sua vita, che qua, che allora passiamo insieme un weekend durante il quale lui sembra proprio svincolato da tutto e da tutti, a parte la figlia che gli scrive un messaggio per salutarlo. Nelle settimane successive sparisce, non risponde alle chiamate, anzi se chiamo dopo uno squillo stacca. Sono con mia figlia e non posso togliere la mia attenzione da mia figlia per parlare con te, no? Per scrivere a te o per parlarti, perché non voglio che lei sappia che io ho una relazione con un'altra persona. Premetto che la figlia vive con la madre, quindi non vive con lui, sta con lui solo i fine settimana. Cominciamo qui a costruire quello che è il meccanismo dell'infamia maschile. So che faccio un lavoro pericolosissimo di delazione, so che sto tradendo il mio genere, sto tradendo la mia specie, so che sarò additato, so che sarò per questo svergognato, sarò per questo considerato un vigliacco. Ma è importante far riflettere chi ascolta su un fatto. Sonia non vuole assolutamente avere la certezza di stare con un uomo single, con un uomo libero, non gliene importa solamente nulla. Sonia non vuole essere un amante inconsapevole di un uomo di cui non conosce l'esatto status. Sonia vuole sapere esattamente qual è la situazione dell'altro, per poi gestirla come meglio crede, se le va, se non le va. Ma gli uomini hanno una presunzione, che le donne la diano soltanto per amore, che le donne la diano soltanto sperando di accasarsi con un uomo. Ma non è così, cari amici, non è assolutamente così. Le donne la danno anche perché a loro piace, perché a loro, esattamente come è stato sempre da millenni ammesso dal genere maschile, a volte piace avere dei momenti di frescura nella tristezza soffocante del quotidiano. Basta essere sinceri, occorre essere sinceri. Questi uomini ridicoli che o dicono di essere single o, la seconda fase, dicono di vivere con la moglie come fratello e sorella. Quale è la differenza fra una convivenza con regolare assolvimento del debito coniugale e una convivenza casta? Cosa pensano, che la donna abbia una maggiore affezione, un maggior desiderio, una maggiore possibilità nel concedersi e se tu vivi castamente con tua moglie? Cosa gliene importa una donna? 800240024. Clementina. Buongiorno. Ecco, finalmente. No, anche perché io ho in mano questi preziosi volumi, se nessuno partecipa non so chi darli. Lei potrebbe essere una delle fortunate e le giuro sono veramente libri rarissimi. Ok, va benissimo. Niente, volevo soltanto, come ho detto prima alla sua collega, che secondo me le persone che hanno questi problemi, trovare le persone un attimo che hanno il coraggio di dire chi sono e cosa sono, sono su cose, su posti sbagliati secondo me. Cioè li cercano nei posti sbagliati? Secondo me sì. E qual è il territorio di caccia giusto, esatto? No, io. Dipende dall'età, nel senso che io a 20 anni l'ho trovato in una sala da ballo. Però dopo, andando avanti con l'età, secondo me determinati circoli, roba del genere. Cioè, si finisce all'ospizio andarli a cercare, quindi vorrebbe dire questo. Oddio no, io no. Guardi, se guarda no. Uno dei programmi più felici della televisione italiana in questo momento è Uomini e Donne Senior con Maria De Filippi. Signori di 80 anni, 90 anni attizzati come mandrilli che si saltano addosso, si scavallano le dentiere, si infilano le mani nei cinti erniari. Pare che anche questa sia un'esposizione felice della carnalità nella quarta e quinta età. Quindi non ho la fortuna di vederlo, nel senso che sono impegnati in altri campi del pomeriggio. Quindi arriviamo alla sua situazione, io voglio confessioni, se no non le do il libretto. Ah, ok. Niente, io praticamente sono sposata a quasi 30 anni. Amo mio marito in modo meglio del primo giorno, nel senso che abbiamo alimentato. No, io sono contentissima di quello che sto vivendo, nel senso che io davo un suggerimento alla signora Sonia, che sicuramente determinati personaggi maschili o anche femminili illudono l'altra persona dicendo quello che non sono perché non così, nel senso che sono talmente tanto abituati a vivere in modo superficiale che hanno forse paura, cioè si costruiscono un mondo loro che non è quello reale. Sì, ma dal momento che la persona donna non ha nessun problema, a lei non interessa, non ha una remora di tipo etico, morale o comportamentale. Lei di andare con un uomo sposato non gliene importa nulla. Perché simulare, fingere, dire che è un'altra cosa rispetto a quello che è? Perché probabilmente ognuno di noi cerca qualcosa di sicuro per l'avvenire, no? Cioè, il fatto di simulare va bene per il momento, però poi ti resta sempre l'amaro in bocca, secondo me. Quindi lei non esclude il fatto che suo marito sia anche un simulatore? Ah sì, sì, secondo me. Sì, sì, non sono gestissima, nel senso che determinate cose, ma sono chiare fin dall'inizio, nel senso che se tu metti i puntini sopra lì sempre e hai il confronto giornaliero in modo anche brutto, duro, eccetera, le cose sicure vengono sempre fuori, insomma. Va bene, Clementina, in bocca al lupo. Erika. Sì, salve, buongiorno. Allora, io volevo, invece, non sono sposata, premetto, però vorrei dare così un nuovo spunto, un punto di vista magari un po' diverso in base alla mia esperienza. No, sì, perché sennò, mi scusi Erika, abbiamo soltanto quadrettini di liaci, di imperturbabili e inossidabili rapporti ultradecennali. Sì, ci fa molto piacere, ma io su queste certezze avrei sempre qualche piccolo, solleverei qualche piccolo dubbio. Io non sono mai certo di niente, di nulla. Chi esatto. proclama delle certezze quotidiane, rinfrancate da un quotidiano confronto, ma qual è il quotidiano confronto? Noi siamo uno e nessuno è 100.000 realmente, abbiamo mille esatto. possibilità di simulazione. Prego. Allora, io ho un compagno americano, di 43 anni, ho un compagno americano da poco più di un anno e l'ho cercato apposta, straniero praticamente, perché io ritengo che sia un'anomalia veramente tutta italiana, cioè degli uomini italiani, di essere dei grandi bugiardi. D'Alberto Sordi proprio. Sì, dei grandi simulatori. Ora io chiaramente non voglio dire che sono tutti così, però anche in base alla mia esperienza precedente e a quella di tante amiche, posso, diciamo, ho una certa casistica. Ecco, vediamo, no? Ecco, no, io vorrei proprio fatti concreti, perché le teorizzazioni non mi piacciono. Vediamo di elencare qualche caso di simulazione. Quali sono i copioni più frequentati, secondo lei, nella simulazione della singletudine o della libertà da vincoli? Perché poi questo mi sembra che sia il problema di Sonia. Uomini che fingono matrimoni bianchi, che fingono solitudini, quando poi in realtà... Esatto, cioè per esempio a me personalmente è capitato sia di uomini che chiaramente ti conoscono, magari in una serata da amici oppure in un ristorante, in un gruppo comunque di persone, e che... ti dicono che sì, loro sono legati, anche perché magari hai amici comuni e quindi loro non possono negare l'evidenza. Esatto, però ovviamente sono frustrati, non sono capiti, eccetera, eccetera, per cui cominciano comunque a tampinare, a mandare messaggi del tipo credo che invece tu sia quella... Ecco, mi spiega una cosa, secondo lei perché c'è sempre una contrapposizione? Uno potrebbe fare tabula rasa, cioè lasciare in sospeso quello che c'è e dire fai parte di una, apro un altro file con te, mi tiri, mi attizzi, mi piace, via dicendo, perché c'è sempre una cosa compensativa rispetto a delle solitudini, a delle incomprensioni. Uno potrebbe gestirsi le proprie comprensioni e incomprensioni separatamente dal lecito diritto di avanzare pretese affettive e relazionali nei confronti di una persona. Poi uno può dire anche di no, ma perché io penso che gli uomini italiani siano proprio educati, capito, dalle madri frustrate, dai mariti, e quindi che proiettano sul figlio maschio le loro aspettative, per cui li mettono sul piedistallo, per cui li abituano veramente, li viziano in tutti i modi e gliele fanno passare tutte, e quindi questi capito si ritengono, come dire, no, in diritto di avere tutto quanto, di accaparrarsi il più possibile, fregandosene altamente di chi hanno di fronte alla fine. Capito? Perfettamente chiaro, la botte piena e la moglie ubriaca, essere il figlio di mamma sempre e continuamente, quindi potersi incapricciare e poter simulare come fanno i bambini appunto qualsiasi infamità pur di ottenere, di mettere il dito dentro la marmellata, che in fondo è il loro unico scopo. Melog 2.0. Come ho capito capito che lui aveva rapporto con la moglie, che questa era la moglie, perché Natale era a casa ed era con lei. Fine anno ha inventato una scusa di lavoro, prima aveva promesso che stava con me e invece è rimasto con lei. E poi perché provocava delle discussioni in modo da provocare delle rotture con me, cioè praticamente delle discussioni per cui rimandava gli appuntamenti che prendeva. E dopodiché, dopo 3 mesi, a me arriva un messaggio, giorno di Pasqua, mi arriva un messaggio in posta elettronica di una persona, di una donna, che mi dice che questa persona si intratteneva con lui quando lui non era con me. Quindi oltre alla moglie c'era anche una terza persona che nel cui computer lui ha lasciato memorizzata la password della posta elettronica. Lei è entrata, ha visto i messaggi che ci scambiavamo io e lui, per cui ero stato fuori un po' un baccello vero e proprio. Quindi veniva da me il mercoledì, stava qua 2 giorni anche a dormire, poi tornava a casa, alla moglie diceva, siccome abitava un po' lontano, che rimaneva dai suoi a dormire, e così. Not a visitor. E vabbè, che c'è di male? Non vedo assolutamente quale sia il problema. Questo signore si era organizzato la settimana. Ascoltando a questo punto l'ulteriore passaggio della storia di Sonia, non mi sento nemmeno di condannarlo. Sì, è un po' infame, simula, si è creata una sua fantasmatica situazione poligamica, evidentemente questo lo soddisfa. Mi diverte che Sonia, dopo aver individuato lo stratagemma ormai noto da tanti uomini del litigio provocato per evitare l'impegno, anche l'email che le arriva dell'ulteriore donna non le faccia venire il sospetto che sia uno dei tanti escamotage. Esiste anche la forma telematica ed elettronica per togliersi un peso superfluo relazionale. In questo caso potrebbe essere proprio esattamente questa fattispecie. Quella che mi ha fatto stare più male è quella di un tipo della mia età, single, che conosco. Io avevo un negozio, conosco per acquisto delle cose da lui. Con questo inizia una love story appassionante, chimicamente appassionante. E a un certo punto, quindi ci vediamo spessissimo, tutte le settimane, ma anche 2 volte la settimana, e a un certo punto una mattina alle 8 io sono al lavoro, mi arriva un messaggio strano, io sono un verme, e io rispondo, ma come mai questa uscita? E quindi questo tergiversa tutta la mattina con messaggi, e all'1 mi scrive, sono sposato. Ma come? Eri single? Sono sposato. E come mai mi dici questa cosa? Tra l'altro me la scrivi e non me la dici in faccia. È perché mi sono sposato 2 mesi fa. Che devo dire? In questo c'è una certa attitudine all'inganno che in realtà rasenta a volte la professionalità. Sonia però lo dice molto divertita. Sonia in fondo sa che questo fa parte del gioco. Non saprei se condannare poi la categoria dei maschi che le incontra o in fondo cercare di suggerire a Sonia il fatto che anche lei si mette nelle condizioni di creare questa sorta di griglia illusoria. Il signore che le confessa dopo mesi di essere sposato evidentemente aveva condiviso con lei l'illusione di essere in una sorta di idilliaca situazione fuori dal mondo, fuori dalle relazioni, fuori dalle persone. Sentiamo che ne pensa Alberto, un vero professionista. Alberto, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io ammetto di essere stato un vile, di essere stato un verme, però è una necessità, perché altrimenti non si riesce a tirare fuori lo spirito delle croce rossine che è in tutte le donne. Senza verme non si abbocca, diciamolo chiaro. Infatti, però ammetto che da quando io sono sposato e ho 2 bambini e non lascerei mai la famiglia, da quando mi dichiaro spudoratamente e ammetto che ho un'attrazione per una donna, non si fa più niente. Perciò bisogna sempre confessare un certo malessere, che c'è qualcosa che non va, mi sto per lasciare, sono in crisi, e allora salta fuori la croce rossina e si riesce a fare qualcosa. Quindi diciamo è un prezzo necessario quello di simulare un disagio matrimoniale. Più delle volte degli uomini dopo si incastrano in delle situazioni dalle quali non riescono a venire fuori. Però come dico, tipo? Tipo non voler mettere in gioco la propria famiglia e tenere i piedi su 2 staffe, e questo è molto difficile. Perché uno dovrebbe mettere in gioco la famiglia per farne un'altra? Qual è? No, uno non ne vuole fare un'altra, si vorrebbe avere solo delle fugaci conoscenze con delle belle signore. E vabbè, mica una cosa, cioè mica è un peccato mortale se uno riesce a gestire. È un peccato mortale, non lo sapevo. No, non è un peccato mortale, ho detto. Ah, e infatti non è un peccato mortale, ma come le dicevo, da quando io mi dichiaro candidamente, dico, guarda, mi piace tantissimo, però sapendo che sono sposato non si fa niente. Quindi no, non ti sposerei, non esiste, ecco, lei non trova persone come Sonia che in realtà sarebbe disposta all'intima d'azione pur di avere una trasparenza della sua situazione relazionale, non ne ha mai trovate di Sonia? Non solamente un'intima d'azione, anche a conoscersi meglio, fa due chiacchiere. Perché... allora lei che vuole essere rinfrancato da un secondo rapporto d'amore. Esattamente. E allora quante ne vuole? Lei non si accontenta di intima d'azione. Io lo ammetto di non accontentarmi. Allora lei vuole ogni volta la conferma, l'illusione che una donna gliela dà soltanto se è innamorata, quindi vuole sentirsi un grande conquistatore. No, ma mica sull'amore, anche amicizia, conoscenza. Va bene, ha espresso perfettamente il suo punto di vista. Gabriele. Buongiorno. Vediamo se lei riesce a superare il suo collega in professionalità. No, anche perché non ho sentito bene quello che diceva, quello che mi ha preceduto. Lui ha detto semplicemente, se lui dichiara la sua situazione matrimoniale risolta, non ottiene l'intima d'azione che cerca, anzi viene tenuto a distanza. Deve sempre simulare delle crisi, dei matrimoni bianchi, delle separazioni imminenti, qualcosa del genere. Io attualmente sono separato, prima sono stato sposato per 20 anni e mi è capitato, non tantissime volte, qualche volta, ma in realtà anch'io confesso di aver messo la fede in tasca e di aver messo opportunamente le dita incrociate per nascondere... Guardi, io adesso mi sono sfilato un secondo per vedere, rimane un segno, è una sorta di piaga, certo, di stigmata. È certo. Ormai la diciamo... Non mi piace, hanno un segno bianco rispetto a... No, il mio non è bianco, proprio un'incisione, come se fosse una scarnificazione, quindi che potrei simulare. Sì, in effetti c'è un solco bianco che è una via di mezzo. No, e io siccome è bianca la mano comunque, quindi ho la mano cadaverica sempre, quindi c'è soltanto un'incisione e poi c'è questa tumefazione della nocca, quindi sarebbe impossibile. No, invece avendo la carne un po' abbronzata è evidente che le dita erano sempre le mani incrociate da ma lei può mettere gli abbronzanti istantanei soltanto nel cerchietto della fede? No, non sono mai arrivato a questo. Fa una lampada alla mano sinistra? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi se vuole. Ah, ci credo, però non ero un professionista, ero proprio un dilettante. Però quello che volevo dire è che a distanza di anni... rivedendo e sentendo questa trasmissione che mi è interessato molto è l'ipocrisia da parte mia e lo confesso, era quella di credere che comunque raccontando e dubito che questa ragazza non avesse notato questa mano incrociarsi sull'altra per nascondere, perché non sono mica tutti stupidi, però io raccontando una balla e lei facendo finta di credere eravamo tutti quanti contenti. Vabbè, avete assolto, diciamo, la remora di tipo morale, sociale, facciate finta di credere entrambi a qualcosa che non era per essere più sollevati nella vostra fuga amorosa. Rossella. Sì, buongiorno. Pronto? Sì, la sto ascoltando con attenzione. Sì, allora, innanzitutto sono entrata in questo discorso a metà del discorso di Sonia, perché io ho agito al contrario del fidanzato di Sonia. Cioè? E cioè io ho frequentato un uomo senza dirgli che ero accompagnata e che comunque mi sarei sposata da lì a breve. Ma secondo lei quest'uomo sarebbe stato atterrito da questa notizia? Secondo me sì, perché alcuni uomini hanno bisogno di sentirsi accuditi, amati. Quindi per lei cos'era questa, diciamo, l'ultima botta di libertà prima del matrimonio? No. Per me era assolutamente la capacità di dimostrare di essere in grado di amare senza aspettarmi niente. Io per 6 mesi gli ho detto, guarda che tu sei il completamento del mio fidanzato. Ma allora quindi lui sapeva che lei aveva un fidanzato? Sì, che avevo un fidanzato, sì. Non sapevo che comunque avevo già deciso col fidanzato di sposarmi il mese X. Allora, vedendo che lui assolutamente non accettava questa cosa... Ma lui era geloso del fidanzato? Sì, assolutamente. Cosa diceva? Lascialo, vieni con me, queste cose qua. Ma lui era libero? Lui era libero, sì. E quindi lei, sì. In tutti i modi, guarda, che comunque sei il completamento, perché nell'amore io credo che esistano diverse sfaccettature di sì, amore. Sì, esistono tanti spazi liberi da poter riempire, okay. Chiaro. Allora, ovviamente non dico l'insoddisfazione del rapporto stabile, però un'insoddisfazione di alcune cose di questo rapporto. Ma secondo me lei aveva messo in mano a lui una situazione felicissima, una donna di cui poter usufruire della grazia, del piacere, della compagnia, senza questa sorta di spada di Damocle che poi di doversela tenere per sempre. Infatti, lui invece non ha mai accettato che io non lo lasciassi, che lui fosse il completamento, doveva essere lui il primo, capisci? Eh sì, così allora... poi lei deve trovarne un altro per essere completata. Io sì, assolutamente. Un uomo che non capisce questo, e me non capisce poco dell'esistenza. Anche perché comunque una donna ha molte più esigenze di un uomo, cioè non voglio fare una battuta cretina. No, no, no, ma ne sono perfettamente. Alla pari del cervello noi usiamo il 3% in su e voi il 3% in giù. Cioè, hai capito? No, questo me lo spieghiamo un po' meglio. Non il 3%, i tre quarti di cervello noi lo usiamo in su e voi lo usate i tre quarti in giù. No, ancora non ho capito. Devi spiegarmela meglio, onestamente. Allora, la libido nostra è più bassa, la volta è più alta. Cioè, la libido delle donne è più bassa? Sì. Abbiamo bisogno di completare il nostro cervello intellettuale, cognitivo. Cioè, voi siete più mentali, noi siamo più sì. Bestiali, questo volete dire. Sì. Ma non è che ne sarei tanto convinto. Secondo me, però, se le piace credere, lo creda pure. Io sì, trovo è che... la mia opinione, sì, sì. Sicuramente. Quindi io avevo bisogno di completezza di diverse cose. Questa persona è molto intelligente e di ottima compagnia. Quindi è perché aveva una bella testa, lo cercava. Ecco, infatti, mica soltanto per l'attrazione fisica. Quindi avevo necessità di questo rapporto. E forse lui non voleva essere la parte della testa e l'altro la parte fisica, voleva essere tutto lui. Sì, voleva essere tutto lui. Nonostante io gliel'abbia detto, non ha mai voluto rinunciare. E quindi com'è finita? Che io mi sono sposata. E l'ha accannato subito. Comunque ha continuato a frequentarmi. Ah, l'ha tenuto come amante dopo sposato? Sì. E quindi? Fine. E quindi direi che è la parte opposta di quello ma che... Ma se n'è liberata sogna. Adesso ce l'ha ancora, diciamo, fra i suoi accessori? No, il mio accessorio non ce l'ho più per scelta. Ah, beh, l'ha mollato, giustamente. Incompatibile. No, anche perché poi uno, la vita matrimoniale, la spero sia lunga e felice, le permetterà di trovarne a dozzine rispetto a questo signore. Melog 2.0. Sono rimasta abbastanza male, ho detto ma scusa, ma tu, ma quando ti sei sposata? Perché io non mi sono accorta che tu fossi emotivamente preso da qualcuno o da qualcosa, no? Mi sono sposato il giorno così così, ma se ti siamo visti il venerdì, lui si è sposato il sabato, il venerdì noi ci eravamo visti. Il San Valentino di quell'anno lì, lui era con me, non con quella che poi ha sposato un mese dopo. E dopo comunque ci siamo, io mi sono incavolata nera, vabbè, ho rotto i rapporti, dopo è tornato vicino, ero un po' così, dopo un po' mi dice, è passato quasi un anno, in marzo dell'anno dopo mi dice, la prossima settimana non cercarmi perché sono a festeggiare il primo anno di matrimonio con mia moglie. E perché lei è incinta e la porta in vacanza. È divertente che Sonia la prenda a ridere, ma chiaramente ormai è talmente abituata al surf attraverso le bugie degli uomini sposati che ormai trova degli elementi fantastici nelle loro nuove invenzioni. Devo dire che Claudia, che invece mi scrive su Facebook, dice una grande verità. Sapete che vi dico, meglio incontrare uomini fintamente, fantasiosamente separati o abbandonati, piuttosto che un uomo veramente abbandonato, perché un uomo veramente lasciato o abbandonato da una donna assicura qualcosa che non va. Mi piace un uomo, mi posso accettare di passare una serata insieme, ma devo essere libera di deciderlo, non tu lo sai e io non lo so. Il campanello d'allarme è quello che funziona meglio, è il cellulare, tu lì gli fai lo screening, perché se io ti chiamo alle 7:30 di mattina, tu non mi rispondi, tu sei a casa con qualcuno, perché io ho notato che gli uomini che invece sono liberi rispondono a qualunque ora, sia ai messaggi che alle chiamate, e non sono catalogabili, nel senso che non hanno degli orari in cui non li puoi chiamare. Quindi il cellulare purtroppo ci libera e ci lega. grande verità, tutto nasce dal telefono cellulare, tutto muore, tutto tracolla, tutto si scopre, tutto si nasconde, si simula nel nostro telefono cellulare. Non dirò mai abbastanza, con abbastanza convinzione, anche se lo dico ormai da anni, che la nostra protesi emozionale in realtà è lo specchio della nostra vita emozionale. È vero, è verissimo. Non si può mandare un messaggio a un uomo che dorme con un'altra donna alle 7 di mattina, ma nemmeno alle 2 di notte. E non si può pretendere che lui telefoni e risponda tranquillamente quando c'ha i bambini con il biberon sulle ginocchia, quando sta stirando i panni, quando aiuta la moglie a piegare le lenzuola, quando sta camminando in ciabatte per non rovinare la cera dei pavimenti. Sono circostanze e fattispecie che so che spoetizzano il rapporto, ma in realtà funzionano. È giusto che questo le donne lo sappiano. Letizia. Salve. Salve, buongiorno. Ah, ride anche lei, mi fa piacere di avervi fatto sorridere questa mattina. Sì, no, perché in effetti mentre aspettavo stavo rispolverando i ricordi e pensando, perché in questo momento è da tanto tempo che sono da solo, lo preferisco decisamente. Beh, Lea, non sta dicendo una cosa carina, eh? Sì, è lo primavera, so, non sente lo stimolo della carne che le suscita desiderio in questo momento? No, ho due figli e lavoro e quindi mi quindi è sufficiente. Questo è... Poi non ho il carattere della ragazza. Sono il bromuro dell'esistenza, i figli e il lavoro. Sì, poi non ho il carattere della ragazza che prima su Facebook ha lasciato scrivere: meglio uno fantasiosamente bugiardo che uno... Cioè, io non sono dell'idea che per forza bisogna stare con qualcuno, assolutamente. Sono molto... Discutevo infatti... No, però ogni tanto da gusto, però, scusi, Ma non lo so, dipende dai caratteri. Io dicevo ieri a mia figlia che sono molto complessa, molto rompiscatole, per cui faccio delle scelte, quelle che mi fanno stare meglio ovviamente. Ho avuto però, ho chiamato perché ho avuto due figli da un compagno sposato, penso per amore, perché lasciai l'università, lasciai tutto, rimasi incinta e era così bugiardo, incredibile. Io allora ero molto ingenua, però... Due giorni prima del matrimonio riuscì a convincere anche mia sorella che non stava bene e andarono a letto insieme. Cioè, si trombò sua sorella due giorni prima di sposare lei? Due giorni prima di sposare me. Beh, è un grande, mi scusi, meriterebbe. Darei a lui il libro in questo momento. No, non, guardi, non la senta come un mio compiacermi delle sue ferite sentimentali, ma lei capisce veramente la creatività di quest'uomo. Esatto, infatti, e io ho chiamato per questo, io la ridevo perché ripensavo a questa cosa. Due giorni prima, fra l'altro con la mia mamma andammo... Anche sua madre? No, io andai in chiesa, io feci il ritardo. Ah no, pensavo che oltre la sorella anche la madre. No, parlavo con mia madre. Sarebbe stata una maniglia completa. Il giorno del matrimonio non volevo andare, feci un ritardo di 3 ore, dopo però c'era un funerale, per cui anche il morto fu disturbato, però poi andai a sposarmi, perché il cervello rimuove, no? Scinde, archivia. Ma la sorella perché gli ha detto subito? No, l'ho scoperto il giorno, due giorni prima del matrimonio, l'ho scoperto. Però e cosa ha detto la sorella? Non ho no, potuto... niente, no, amo tuttora tantissimo mia sorella. È sì, poverina, è colpa lei, in fondo, cosa le ha tolto? No, la colpa, non si dà la colpa a qualcuno. Infatti non le ha tolto nulla, in fondo. Esatto, si cerca di difendersi dal dolore forte, no? Ma non è dolore, guardi, è un dividersi tra sorelle, alcuni impegni quotidiani, fa parte della vita domestica, come se l'avesse aiutata veramente a stirare le lenzuola. Alleviava il suo debito coniugale, in fondo. Però, insomma, lui è stato così simpatico da convincerla due giorni prima del matrimonio. Poi dopo ha continuato, abbiamo avuto due figli, io sono un idiota, lo dico, lo ammetto, abbiamo avuto due figli, eccetera, eccetera. Poi ci siamo separati perché lui ha continuato ad avere a praticare questa attività di vittima sacrificale, per cui niente, l'ho lasciato libero. Letizia, guardi, siccome siamo vicini alla fine, assegno subito un libro, anche se avevo già assegnato tutti e 3 libri, lei se lo merita uno. Quindi un libro infame, il migliore dei libri infame è il suo, La spinta gentile. Questo lo regalo a lei, è la nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute e felicità. Ne avrà senz'altro bisogno. Quindi il primo libro infame lo assegniamo senz'altro a Letizia. Daniela. Buongiorno Gianluca. Chiudiamo con lei. A tutti gli ascoltatori. Grazie. Senti, io ho telefonato, lo voglio il libro, assolutamente. Vediamo perché... se te lo meriti. Perché al contrario delle altre persone che sono intervenute, io ho sempre praticato la politica contraria, cioè se uno era libero non lo volevo, perché invece si era occupato. Quindi lei la intima d'azione è subordinata al fatto che uno sia occupato, perché per non avercelo fra le scatole poi? Per non avercelo fra le scatole, perché comunque gli uomini sono tutti bugiardi, allora il discorso che delle bugie del sabato, della domenica, del weekend o di qualsiasi altro giorno. Allora vediamo un attimo. Non me le dovevano fare le bugie. Allora vediamo, le faccio l'ultima domanda. Vedere se lei si merita il libro. Quante volte mediamente avviene l'intima d'azione a uomini sposati nella sua vita? Quanto viene, scusa? Quanto avviene l'intima d'azione nella sua vita con uomini sposati? L'ultima? In media, l'ultima. Quante volte in media? A settimana, al mese? A settimana? Quanto? Dica, due volte. Due volte a settimana la dà un uomo sposato. Il vincitore. Ho vinto qualche cosa? Bene, lei ha vinto SOS Matrimonio, come organizzare al meglio il giorno più bello della vostra vita, perché se lo merita veramente. E l'ultimo libro, Sposa, lo regalo ad Alberto, il mentitore confesso, che in fondo merita un libro grazie alla sua sincerità. Ci sentiamo la prossima settimana. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.